Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo praticamente e soprattutto della proposta europea. Dico proposta perché bisogna stare attenti alla definizione, nel senso che la proposta, che si chiama Next Generation EU, è una specie di compromesso in cui dopo la proposta franco-tedesca di un fondo da 500 miliardi da raccogliere sui mercati finanziari, quindi un fondo europeo, e da distribuire come sussidi, non come prestiti, la Commissione ha scelto una via di mezzo, non neanche tanto una via di mezzo, perché sarebbe troppo critica come analisi, cioè l'intero pacchetto è di 750 miliardi, di cui, da quello che si è capito, 500 miliardi sarebbero a sussidio e altri 250 come prestiti. Questo per venire incontro alle resistenze che conosciamo dei cosiddetti paesi frugali, li chiamo avidi, e quindi Austria, Olanda, Danimarca in primis. Dico però che è una proposta perché poi dovrà essere approvata dai vari paesi ed è probabile che si dovrà trovare un compromesso. Non c'è mutualizzazione del debito, ha chiarito la von der Leyen, citando i frugali che chiedono un bilancio moderno. Il 60% della proposta va verso politiche nuove. La Unione Europea otterrà i 750 miliardi di euro, scusatemi, innalzando il tetto delle risorse del bilancio comune, quindi andrà sui mercati a finanziarsi con un debito che dovrà essere rimborsato tra il 2028 e il 2058 attraverso il bilancio comune, quindi parliamo di un periodo insomma abbastanza distante con il tempo. Però all'Italia dovrebbero toccare complessivamente 172 miliardi, di cui 81 come aiuti e 90 come prestiti. Poi la Spagna con 140 miliardi, 77 aiuti e 61 prestiti la Polonia 63 miliardi di cui 37 di aiuti e 26 di prestiti, per la Francia 38,7 miliardi e anche per la Germania 28,8, in entrambi i casi solo di aiuti a fondo perduto. Sono quelli preallocati per l'iniziativa europea. Allora, ha ragione, penso anche al commissario all'economia europeo Paolo Gentiloni, europea, chi dice è una svolta senza precedenti. Tant'è che l'Olanda ha già avvertito i negoziati saranno lunghi, la Danimarca ha detto studieremo bene la proposta e speriamo di raggiungere un accordo, Angela Merkel ha detto la proposta è costruttiva, ora si apre la trattativa, non riusciremo a chiuderla però per il Consiglio europeo di giugno. Macron ha detto un giorno essenziale per l'Unione europea, ora si va avanti veloci. Anche il ministro dell'economia francese ha detto la Commissione è presente all'appuntamento con la storia. Il premier spagnolo Sanchez ha detto la proposta dell'Unione europea include molte nostre richieste. E poi anche la parte italiana, il premier Conte ha detto è un ottimo segnale dell'Unione Europea, una cifra adeguata. Gualtieri ha twittato well done, ben fatto, è un passo in avanti storico. Allora, e la priorità deve essere sugli investimenti. Anche Di Maio poi ha aggiunto, il ministro Di Maio, usiamo il recovery fund per abbassare le tasse. Bene anche secondo il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. Ora il Consiglio europeo deve confermare la proposta della Commissione e il leader della Lega Matteo Salvini ha detto aspettiamo non più promesse ma soldi veri, se arrivano soldi veri siamo felici. Non è l'ennesima dichiarazione della Commissione europea, gli imprenditori e i lavoratori italiani si aspettano fatti. Ne parleremo in apertura, ma si può già dire una cosa, onestamente, che come cambio di passo c'è, se solo ci fosse proposto un anno fa alla Commissione Europea di varare uno strumento del genere, parte a prestito, ma soprattutto la parte più grossa a fondo perduto, avrebbero chiamato la Neuro, perché era fuori da ogni logica di quell'Europa e dell'Europa fino a qualche mese fa, l'idea di prestare soldi a fondo perduto senza, o meglio, dare sussidi e non prestiti, per essere più corretti, così come non avremmo mai immaginato una sospensione del patto di stabilità che la Francia vuole sospendere anche per l'anno prossimo, quindi il tetto del 3%. Dopodiché bisognerà vedere l'accordo che si riesce a trovare, perché questa è la proposta, è una proposta forte che è dietro alla Francia, la Germania, la Spagna, l'Italia, però, e ne parleremo in apertura, bisogna capire se poi veramente sarà questa la formulazione che verrà approvata dal Consiglio europeo. Detto questo, per vedere il bicchiere mezzo pieno, è obiettivamente una svolta come atteggiamento, come impostazione, cioè il fatto che si possano dare a dei paesi per via del Covid, e quindi non per colpa loro interna di una mancata gestione dei conti pubblici, degli aiuti a fondo perduto, che sono aiuti europei, e l'Europa li andrà a raccogliere con un'emissione, con un prestito da rimborsarsi appunto entro il 2058. E mi sembra un approccio completamente diverso. Lo analizzeremo nel corso praticamente di tutta la puntata. In apertura parleremo anche della scuola, anche se non voglio tornare sul tema che ho già lanciato ieri negli altri giorni, cioè questa incapacità italiana di prevedere anche uno straccio di riapertura. Io abbiamo cercato oggi di nuovo i rappresentanti del Ministero all'istruzione, ma non siamo riusciti a ottenere nessun tipo di intervento. Resta una profonda amarezza, ma non tanto visto varie dichiarazioni sulla scuola, tanto la solidarietà al ministro Azzolina, che ho visto che ha dovuto essere messa sotto scorta per le minacce, ma da quello che abbiamo capito riguardavano la trattativa sulla stabilizzazione dei precari, vale anche per il presidente della regione Lombardia Fontana. È stato approvato in commissione in istruzione del Senato l'emendamento che riguarda il concorso per l'assunzione dei precari nella scuola, e va bene, però sulle elementari tornerà dal prossimo anno il giudizio, stop ai voti. Nessuna notizia invece su come si potrà riaprire la scuola. Sono tutti di Azzolina ieri ha detto che a settembre si torna in classe, il sindaco di Milano Sala ha detto io sono favorevole alla possibilità che i nostri bambini facciano almeno l'ultimo giorno di scuola assieme, e poi deciderà qualcun altro, ma noi applicheremo le decisioni prese. Faccio notare che Sala in un video ha citato il caso tedesco, cioè lo studio del Land del Baden-Württemberg, che è uno dei più colpiti in Germania dal Covid, e il Land del Baden-Württemberg ha ordinato alla clinica universitaria di Heidelberg una ricerca sulla diffusione del Covid nei bambini tra gli 0 e i 10 anni, ed è emerso che, questo dallo studio di Heidelberg, i bambini di questa fascia età non sono portatori e non sono diffusori del Covid, ha aggiunto Sali. In base a questa ricerca hanno riaperto nidi, asili, scuole fino ai 10 anni, precisando che sono stati sottoposti a tampone, test sierologico i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti. Per carità, nessuno qua è uno scienziato. Faccio notare però che Trapani oggi è la prima provincia italiana senza pandemia. E adesso cerco di far capire perché unisco le due cose. E cioè, secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per dichiarare conclusa una pandemia, questo dovrebbe interessarci quantomeno, occorre che non vi siano contagi per due cicli di incubazione, cioè 28 giorni, visto che un ciclo è considerato di 14 giorni. A Trapani non si registrano contagi da 28 giorni, e domani, salvo novità, sarà la volta anche di Crotone, che è da 27 giorni senza contagi. Perché, mentre poi abbiamo la Sardegna con 3 giorni senza contagi, e in Calabria da 4 giorni non si registra un contagio. Perché lo dico? Perché una delle cose che non mi piace del modo in cui è stata trattata la riapertura o non riapertura delle scuole non è solo il fatto che non si sia neanche mai tentato, voglio dire, parrucchieri, bar e ristoranti dovevano, se ricordate il primo intervento di Conte sulle riaperture, dovevano aprire il 3 giugno sostanzialmente, poi sono stati anticipati a metà maggio, Benissimo. Io continuo a non capire perché non siano a rischio i cittadini quando vanno in un bar al bancone, devono stare a un metro di distanza, perché si possa fare tutto, perché riaprano anche le palestre, sono molto contento, ma riaprono anche le palestre, ma non si è neanche tentato una riapertura su base regionale delle scuole, come già avvenuto in Francia, in Spagna, non solo, siamo l'unico paese dell'Unione Europea che non tenta neanche... su base volontaria, alcuni mi hanno scritto, guardate che c'era il tema della responsabilità dei dirigenti scolastici e dei presidi. Bene, in Francia è stato fatto su base volontaria, quindi la famiglia che mandava il figlio a scuola si assumeva la responsabilità, non era obbligata a farlo, era una sua scelta, in questo modo vai anche a non dare la responsabilità alla scuola, una volta che la scuola ti garantisce che ha fatto il possibile, come vale per le imprese, per mantenere le distanze di sicurezza. Non si poteva fare in tutta la penisola in maniera uguale, posso essere d'accordo, infatti non capiamo ancora se riapriremo il 3 giugno lo spostamento regionale da regione a regione, sembra che la Lombardia e il Piemonte potrebbero non aprire il 3 giugno, forse slittare di una settimana o due, ma va benissimo questo approccio. Qualcuno deve spiegare, non a me che vivo in Lombardia, ma ai genitori dei bambini che abitano in Calabria, in Sardegna, a Crotone, a Trapani, faccio gli esempi che ho appena citato, perché lì non si potevano fare gli esami di terza media all'aperto, ma diciamo non a distanza di sicurezza, ci mancherebbe, ma non via web, perché non si è cercato la proposta della Ascani, era sulle classi terminali, cioè le quinte elementari, le terze medie, le quinte superiori, di provare a concludere anche simbolicamente l'anno scolastico a partire appunto dagli esami, perché si è gettata la spugna già da metà aprile. Io posso capire che a metà aprile la situazione fosse molto più complicata di adesso, ma in altre cose siamo tornati sui nostri passi, c'era la pressione delle attività produttive, perché anche l'Olanda è aperta, faccio notare, perché mi scrive uno ascoltatore, che brutto programma, vabbè, se a lei non piace il programma può sempre cambiare radio, ci mancherebbe, ma io non mollo sul tema della scuola, anche se capisco che ormai è una battaglia con i mulini a vento, perché mancano pochi giorni, gli insegnanti stanno già salutando via web ovviamente, e poi la prossima settimana iniziano gli esami per le terze medie, però non mollo sul colpo, mi dispiace, continua a rovellarmi, non capire e a non ricevere spiegazioni né dal comitato tecnico scientifico, che ieri ho chiamato l'oracolo di Delfi, perché non dà spiegazioni in base a che cosa, indice di contagio, c'è qualche studio sull'indice di contagio tra i bambini, non c'è uno studio, abbiamo solo dichiarazioni generiche. Continuo a chiedere uno studio che l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, aveva cercato di sviluppare sui luoghi del contagio, se si riesce a capire se è più pericoloso un ospedale, un RSA, una famiglia o un luogo di lavoro, o addirittura luogo scolastico, no, perché erano chiuse, e non riesco a capire perché non abbiamo scelto la strada di Francia e Spagna. Si può imparare anche dall'estero, guardando gli altri modelli, su base volontaria, nelle regioni verdi, provare a riportare le classi, non, chiaramente non tutte, in Francia c'è una limitazione fino a 5 bambini per l'asilo, fino a 8 se non ricordo male per la scuola elementare, per carità, con limitazioni, con rotazione, facendo un giorno a caso, ma almeno tentare e vedere che cosa succedeva su base anche volontaria nelle regioni dove il tasso di contagio è così basso. In realtà si è buttata la palla subito a settembre e tanto chi se ne frega, e infatti vediamo in tutte le città italiane, ma non ho voglia di incavolarmi come ieri, bambini di qualunque età, dai 5 ai 18 anni, in giro tranquillamente con nonni, babysitter, tra di loro, tanto lì il contagio non c'è, ma basta che non vadano nelle classi e basta che non vi sia un'assunzione di responsabilità. Questo lo dico anche perché ho ricevuto, e poi andiamo avanti con notizie in breve, moltissimi messaggi di insegnanti che dicono guardate che noi invece saremmo stati a favore per tentare una riapertura della scuola, quindi non è adesso mi ha scritto un altro docente, anch'io non capisco perché non si possa tornare a scuola con tutto insieme di precauzioni. Ultima nota, ho visto che neanche si è tentato di cambiare il calendario scolastico, cioè le scuole chiudono come se non ci fosse stato il coronavirus, come se i ragazzi e i bambini non fossero stati prelevati il venerdì con le cartelle ancora in classe, chiudono a inizio giugno, per carità, ci saranno motivi inderogabili, riaprono a settembre, quindi da febbraio fino a settembre sostanzialmente sono problemi delle famiglie, questo poi è alla fine di tutto. Cosa fai fare a tuo figlio, come lo tieni un minimo in attività, come... Qualcuno mi scrive dunque, ma cosa c'entra la scuola con un programma di economia? Beh, guardi, non so neanche se risponderle, perché... Allora facciamo così, tutte le volte che sentirò parlare di investimenti in istruzione, investimenti in ricerca e sviluppo, il capitale umano, tutte queste belle cose di cui si riempiono i convegni a qualunque livello, valorizzare le risorse umane, la formazione, il futuro è della conoscenza, il capitale della conoscenza, bene, tutte cose bellissime nei convegni, poi quando si tratta di tentare di mandare ragazzini a scuola a qualunque età, vedo che siamo l'unico paese che del capitale umano futuro non gliene frega un'assoluta mazza. Devo dire, lo dico anche al governo, perché qualcuno mi dice lei è filo governativo, non me ne frega nulla, ma guardate, il Premier Conte, per quello che vale la mia analisi, non sottovaluti questo tema, perché è chiaro che il governo ha dovuto affrontare l'emergenza e sta ancora affrontando l'emergenza economica. Però io ieri ho fatto la battuta, forse perché i ragazzini non votano e non c'è un sindacato degli studenti, però votano le loro famiglie. E attenzione a questo, perché... basterebbe avere anche un po' di comunicazione in più da parte del ministero guidato dalla ministra Azzolina. Intanto io voglio capire, perché sono duro di comprendonio, voglio capire i criteri adottati del CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Non mi basta l'acronimo, non mi basta che sia il Comitato Tecnico Scientifico. Se c'è una regola che vale nella scienza, per come l'ho studiata io, è la pubblicazione delle ricerche con protocolli e distribuire a livello di comunità scientifica il tipo di lavoro che hai fatto in maniera trasparente. Ecco, mutatis mutandis, ci potete far sapere sulla base di quali studi, di quali ragionamenti, di quali valutazioni anche territoriali si è deciso che le scuole di Trapani debbano essere considerate come le scuole di Milano, di Bergamo, di Brescia, quindi non debbano comunque riaprire nonostante una differenza abnorme sui casi? Mi sapete spiegare perché non avete fatto come neanche guardato al modello spagnolo e francese, che cito perché sono due paesi molto simili a noi quanto a diffusione del virus? Faccio notare che gli insegnanti per fortuna non sono in cassa integrazione e quindi hanno lo stipendio pieno e almeno, diciamo, da questo punto di vista non c'è stato un danno economico, a differenza di tante altre classi di lavoratori, e quindi ho, da cittadino che paga le tasse, il diritto di chiedere il perché il corpo docente di questo paese venga messo in parcheggio o parcheggiato, sì, ho capito gli esami, vabbè, fino a settembre, poi vedremo a settembre, ancora non si è capito, lo facciamo di mattina, al pomeriggio, in alternanza, mattina, pomeriggio, oppure in alternanza un giorno a scuola, un giorno a casa con il tablet, cioè, ci potete sapere, faccio un appello, ministra Azzolina, Patrizio Bianchi, ministro, sottosegretario, viceministro Ascani, ci potete far sapere come lavora sto comitato, sulla base di quali indicazioni lavora, con quali criteri, perché non andava bene il modello francese e spagnolo, tutto qua, basta. Io sono d'accordo con molti docenti che mi scrivono guardi, che non è bello nemmeno per noi lavorare in questo modo. Sono d'accordissimo, ho un figlio nell'età scolastica, quindi capisco benissimo che non sia anche un vantaggio per molti docenti, ma infatti io vorrei capire a livello ministeriale, i sindacati, va bene la stabilizzazione dei precari è importantissima, però oltre che la stabilizzazione dei precari ci sarebbe anche la stabilizzazione degli studenti. Barisoni, siamo a giugno, ho capito, siamo a giugno, si poteva tentare un allungamento della scuola, non so, magari sto dicendo le bestemmie, ma 2 settimane si poteva allungare, provare a vedere se si poteva arrivare fino al 20 di giugno, è una bestemmia spostare c'è il coronavirus, ho capito che spostare in avanti gli esami, provare a vedere se riuscite a fare due settimane alternate in alcune, ripeto, in alcune regioni, non in tutte le regioni. Ma riapriamo pure le palestre qua. E poi ci sono tutti quelli che mi scrivono. Io tra l'altro mia moglie non è potuta tornare a scuola, al lavoro, perché doveva seguire mio figlio di 7 anni, perché c'è tutto il problema delle famiglie, come fanno ad arrabattarsi con i bambini a casa, non tutti sono miliardari e hanno la babysitter che possono prendere 9 ore al giorno, ma tutto questo non frega nulla. C'è qualcuno che mi scrive sui Navigator che hanno ricevuto i 600 euro. Guardi, secondo me i Navigator non ci devono proprio essere, per cui cosa vuole che le dica sul fatto che pure ricevono i 600 euro? Vabbè, sono i sindacati della scuola il problema? Lo dicono chiaramente i sindacati. Prendono posizione netta per dire che le scuole non vanno riaperte, sono troppo pericolose per i docenti. E questo mi sembra poi il problema. Tanto non, guardate che potete insultarmi quanto volete, io continuo, ogni giorno uno può staccare. La scuola non è un parcheggio, infatti la famiglia sì, però cosa vuol dire la scuola non è un parcheggio? Mi scusi. Cosa vuol dire la scuola non è un parcheggio? Guardate che stiamo cercando il Ministero dell'Istruzione, non hanno la possibilità di intervenire, adesso interverranno più avanti. Ma non ce l'ho con la Scani, che è l'unica che ha fatto una proposta un po' di buon senso, almeno un giorno per le classi che poi non si rivedranno più, ma ce l'ho in generale. Vabbè, andiamo avanti. La borsa invariata a Milano, più 1,55 Parigi, più 1,30 Francoforte, più 1% Londra, più 0,70 il Dow Jones. Diasori meno 12,70%, Nex meno 7,80, Steam Electronics meno 5,30, Amplifon meno 3,80 come Prismian, il 3% lo perde Snam e Saipem, il 2,80 Leonardo, il 2,5 Recordati, il 2,12% A2A, il 2% il caro di Fineco, bene Unicredit più 4,5, Atlantia più 4,20 come Mediobanca, Case New Holland, CNH più 3,80 come Bipper, il 3,30 lo guadagna Pirelli, il 3% Fiat Chrysler, il 2,80 Intesa e il 2% anche Buzzi Unicem ed Eni. Oddio, vedo tantissime scuse, il tema non è la scuola ma gli edifici scolastici in una norma già in condizioni normali. Senta, ho detto che si poteva anche cercare un po' di fantasia, abbiamo usato la fantasia in tutti i modi possibili, per i bar, per i ristoranti, per le palestre, per le parrucchiere, tutte cose sacrosante, ci mancherebbe, e non si è tentato un minimo di così. Ho visto molti comuni avevano dato la disponibilità dei parchi, dei teatri, dei cinema, che tanto sono chiusi, non possono lavorare. No, so, ma potevi fare anche un giorno, due giorni a settimana, non lo so, un tentativo, poi magari andava a buon fine, poi magari c'erano poche adesioni, all'inizio in Francia le adesioni erano poche, soprattutto nelle aree, in alcune aree poi lentamente sono cresciute, la stessa cosa in Spagna, ma tutti trattati nello stesso modo, che tu sia un bambino di 7 anni o un adolescente di 17, che tu abiti a Trapani o abiti a Milano, tutti nello stesso modo, si parte a settembre, basta, non ci rompete le palle, perché tanto non dobbiamo ragionare su settembre, e su settembre ancora non si sa nulla, e voi volete che io stia calmo? Ma neanche ci penso. E poi il CTS, i virologi, non ce l'ho con i virologi, per carità, ma siccome abbiamo letto di tutto in questi mesi, ricordate che all'inizio le mascherine non servivano, adesso non te puoi muovere senza mascherina, bene, posso sapere quali criteri hanno preso sui contagi, sull'RT, hanno preso quella di Gallera, quella normale, non me ne frega nulla, ma posso sapere, non siete mica... non sono mica atti secretati, diteci semplicemente quale ragionamento avete fatto. Parliamo d'altro, Barisoni. Sì, dai, andiamo avanti, sennò oggi. Sì, tra l'altro, più soldi su Alitalia che sulla scuola nel futuro, pure lì. Ma guardate, potrei fare l'elenco. Ma perché devo invitare Crisanti? Io stavo cercando la Scani, sto cercando Lazzolina, sto cercando Patrizio Bianchi, che mi ha detto no, mi ha chiamato su ufficio stampa, no. Di cosa gli vorrebbe parlare? Del metodo utilizzato, bene? Scomparso anche quello. E poi guardate che non sono, adesso lo dicono non sono il solo. C'è un'iniziativa su Repubblica che ha raccolto molte firme sul tentativo di ripensare a questo. C'era un bellissimo editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera 2 giorni fa. Ho visto anche Ferruccio De Bortoli dire una cosa che mi preoccupa tantissimo. Cioè, non vorrei che adesso appena le scuole chiudono poi se ne riparla al 30 agosto di come riaprono a settembre, perché non fa più notizia. Cioè, facciamo passare la... Ma io non mollo neanche da... Guarda, lo dico, meglio che venga ospite la Scani e anche la Zolina, perché tutti i giorni, se no facciamo una rubrica, mancano, faremo un countdown, quanti giorni per sapere come, con che criterio, perché non poteva essere fatto prima, riapriranno le scuole italiane. A me interessa, ad altri no, e basta. Il corpo docenti vota chi se lo mette contro. Ma sì, guardate che non sono mica così convinto che il corpo docenti sia tutto così contento di questa decisione. Poi, per carità. Vabbè, dai, andiamo sul meteo e la pubblicità e poi partiamo con la Lagarde, con la decisione dell'Europa. Una pagina praticamente quasi unica su questo, vista l'importanza. Sì, ma guardate, non è 2 ore di video lezione, stipendio pieno giugno-luglio. Io dico che tutto il paese sta soffrendo. Barisoni, ma chi si crede di essere? Boh, un normale cittadino che paga le tasse, che fa giornalista e che chiede conto al governo sul criterio utilizzato per non aprire scuole a differenza di Francia e Spagna, mentre tutto il resto è aperto senza fare distinzioni regionali. Questo mi credo di essere. Meteo. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Once again, is that same binary choice. We either all go it alone, leaving countries, regions, and people behind, and accepting a union of haves and have-nots, or we walk that road together. We allora, questa è la Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, nell'annunciare il pacchetto da 750 miliardi, è la proposta della Commissione Europea, non è chiaramente stata ancora accettata. 500 miliardi di aiuti e 250 miliardi di prestiti. La von der Leyen ha detto: ripareremo l'economia insieme, un'economia in difficoltà da una parte indebolisce una forte dall'altra, occorre ridurre le divergenze o vi saranno rischi sociali. Sul modello di fondo c'è accordo, le riserve però non sono solo dei paesi cosiddetti frugali, non c'è mutualizzazione del debito. Poi la cosa interessante però è capire come dovrebbero essere distribuiti questi prestiti. Intanto ringrazio la Mitica per averci raggiunto in collegamento e quindi Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Adriana. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, perché immaginiamo, so già che insomma tu mi dirai che questa è la proposta, poi ci sarà tutta una fase di accordo, però immaginiamo che l'impianto sia questo: 2/3 aiuti, 1/3 prestiti. Guardando l'ipotesi di distribuzione, l'Italia sarebbe quella che ne riceverebbe di più, però riceverebbe 81 miliardi come aiuti e 90 come prestiti, per un totale di 172. La Spagna avrebbe un rapporto inverso, cioè più aiuti che prestiti, 77 miliardi di aiuto e 63 di prestiti. Poi la Polonia, anch'essa inverso, più aiuti che prestiti, perché gli aiuti non devi restituirli, 37 miliardi di aiuti e 26 di prestiti. Poi Francia e Germania riceverebbero solo aiuti, 38 miliardi la Francia e 28 miliardi la Germania. Ci aiuti a capire come funzionerebbe questa divisione? Perché alcuni mi hanno scritto: ma allora non possiamo prendere solo gli aiuti e non i prestiti? Tu Dunque, certo. Allora, naturalmente tutto questo è una bozza che va negoziata, quindi non è detto che sia quella definitiva. Io direi che in questo momento la cosa più importante è che l'Italia è il maggiore beneficiario di questo nuovo pacchetto, diciamo, di aiuti, che non comprende solo il nuovo fondo che viene chiamato Nuova Generazione Europa, bensì anche il bilancio pluriennale europeo, quello che partirà dal 21 al 27, che però avrà anche un meccanismo ponte per dare gli aiuti da subito senza dover aspettare l'anno prossimo per le lungaggini, naturalmente, non solo di raggiungere un accordo ma poi di ratificarlo e compagnia. Quindi poi l'altra cosa che vorrei dire è che anche le sovvenzioni sono sia quelle che ci verranno, quelle diciamo tradizionali, i fondi che vengono dal bilancio, sia quelli che verranno raccolti attraverso questo nuovo fondo, che avrà appunto 500 miliardi di sovvenzioni e 250 di prestiti. Allora, ma quindi, scusa, per finire un momento, ma tu puoi scegliere le sovvenzioni. Tu puoi scegliere. No, non lo so come sia il meccanismo. Io in tutta franchezza ti dico che hanno annunciato per domani un nuovo briefing, quindi è meglio che ci sentiamo domani proprio su questo tipo di... Non voglio che tu... Oggi ci hanno bombardato di dati. Per ora, proprio a una domanda specifica, ma vabbè, 172, hanno detto domani ci sarà la spiegazione chiara su come funzionerà, diciamo, la ripartizione, eccetera. Quindi eventualmente domani... No, ma domani ti sei autoimpiccata, nel senso che domani verrai per forza. Non è un dettaglio, dovrebbero spiegarli. Però quello che volevo dire io invece è un'altra cosa. Noi parliamo spesso di aiuti a fondo perduto. Allora, quelli che ci verranno dal bilancio europeo saranno con le tradizionali modalità, dunque saranno fondi che ci vengono con il cofinanziamento nazionale, in certi casi quando è previsto. Quelli invece che ci verranno dal nuovo fondo, diciamo Recovery Fund, per evitare la lungaggine della nuova generazione europea, quelli non saranno a fondo perduto in senso classico, ma saranno a fondo perduto ma mirati a certi obiettivi. Su questo hanno molto insistito, l'aveva detto la stessa proposta franco-tedesca, cioè in sostanza questi soldi noi li avremo, ma avranno una, come dire, destinazione concordata attraverso un piano nazionale che dovrà prevedere un piano di riforme dentro le quali naturalmente ci potrà essere appunto quello che di cui si parla in genere nel semestre europeo, dunque per esempio la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia. Ci sarà un elemento anche che riguardi una politica economica sana, dunque anche non nell'immediato perché non è possibile, ma diciamo in prospettiva immaginare misure a sostegno della sostenibilità del debito. E poi ci saranno anche, come dire, in questo piano ci devono essere anche devono essere recepite le priorità europee su cui si gioca il nuovo bilancio. Sì, quindi tu ci stai dicendo che la digitalizzazione, sì, non possono essere utilizzati come, diciamo, come vuoi tu, ma cioè, devono essere. In sostanza non possiamo fare quel che ci pare con questi soldi. No, ma questo mi sembra corretto, però. In modo mirato. Esatto. Questo mi sembra corretto. L'altro aspetto, scusami se ti interrompo, che vorrei sottolineare sono gli altri fondi che sono presenti in questa proposta e che sono fondi nel bilancio, non parliamo più di genere, e che sono un fondo per la solvibilità delle imprese. Questo è molto importante perché sostanzialmente la Commissione prevede che nel peggiore degli scenari noi da qui a fine anno potremmo avere dei numeri spaventosi, nel senso che dal 35 al 50% delle imprese europee con più di 20 dipendenti potrebbero avere dei seri problemi finanziari. Per questo hanno previsto questo fondo di solvibilità da 31 miliardi, che però sarebbe in grado, adesso non ti sto a spiegare i meccanismi tecnici, ma insomma sostanzialmente di mobilitare circa 300 miliardi a sostegno appunto delle imprese sane che abbiano dei problemi di solvibilità. Questo secondo me è piuttosto importante. E certo, l'altra cosa è il fondo Invest Euro, che è il vecchio fondo Juncker, diciamo, quello a sostegno degli investimenti sempre delle imprese, che avrà una dotazione di 15,3 miliardi, ma sempre con i soliti effetti leva, garanzie e compagni, dovrebbe generarne 240, sempre a sostegno delle imprese, in questo caso per incoraggiarne la digitalizzazione, il Green Deal e compagni. E infine ci sarà, sempre per le imprese, un altro fondo per gli investimenti strategici, sempre da 15 miliardi, con possibilità di mobilizzarne 150, sempre coinvolgendo anche il settore privato, per garantire la leadership industriale europea, quindi sostanzialmente aiutare le imprese a eccellere nei nuovi settori prioritari. Allora Adrià, questo che voglio dire è che c'è un piano, c'è un progetto. Ecco, qui volevo arrivare, perché già giustamente stanno dicendo è tutto un forse. Chiaro che deve passare dal Consiglio europeo, però intanto ringrazio anche l'ex ministro e ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Giovannini. Buonasera. Poi io una cosa sulla scuola gliela voglio chiedere. So che lei fa parte del comitato, non può dirci nulla sul gruppo di lavoro, quello con Colao, però una sua idea sulla scuola me la deve dare dopo, gliela anticipo così non le faccio la domanda tra bocchetto. Però Adriana, poi voglio sentire su questo anche Enrico Giovannini. Al di là di come funziona il meccanismo, domani ci risentiamo, perché voglio capire magari se di questi 750 miliardi tu non potrai scegliere solo la parte di a fondo perduto, diciamo così, ma sarei obbligato a prendere due terzi, un terzo. Non ho ancora capito come si distribuiscano i soldi, perché è chiaro che tutti punteranno, immagino, agli aiuti e non ai prestiti. Però c'è veramente un cambio di passo o c'è il rischio che sia, come scrive un ascoltatore, una supercazzola europea, cioè come se fosse Antani, così? No, secondo me c'è un cambio di passo, perlomeno nella volontà teorica. L'altra cosa che vorrei dire è che la von der Leyen ha ripetuto più volte che prima di scrivere queste proposte si è consultata con tutti i paesi, compresi i famosi frugali. E lei sostiene che, adesso sarebbe lungo spiegarlo, ma che comunque molte delle loro istanze sono state recepite. Quindi no, io credo che sia veramente un piano questa volta in cui l'Europa tenta di giocare veramente la carta del proprio rilancio, ma il rilancio di ampio respiro, insomma, non chiacchiere, perché qui ci mettiamo i soldi. Quindi perché? Perché tutti si rendono conto, ma prima di tutto la Germania, che nella situazione in cui rischiamo di andare, rischiamo di desertificare l'Europa dal punto di vista economico. Questo è un danno naturalmente per l'Europa, ma lo è soprattutto per la Germania, che in questo momento, se si guarda un po' più in là dell'Europa, vede la guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, vede il mercato cinese molto meno ricettivo di quanto non fosse. Quindi il suo vecchio tentativo di sostituire in qualche modo la Cina la vecchia Europa, eccetera. Cioè la vecchia Europa con la Cina. Capisci? E in questo momento il mercato europeo diventa vitale per la Germania. Quindi tutto questo, secondo me, la induce seriamente a investire sull'Europa, perché nessuno sa esattamente quali saranno gli equilibri del nuovo ordine mondiale. E quindi, visto che tu hai un grande mercato con teoricamente un buon potere d'acquisto, quindi un mercato di sbocco buono per i tuoi prodotti, tutto questo fa pensare che la Germania ce la metta tutta e la, insomma, no, ma devo dirti la verità che eccetera. Anche noi abbiamo avuto la sensazione. Io ci credo a questa cosa. Bene. Dopodiché, come Adriana finirà, probabilmente qualcosa si correggerà, naturalmente, come tutte le trattative. Però l'impostazione è buona, ecco, non è la solita impostazione. Devo dire che la pensano come te, tra virgolette, sia Angela Merkel, che dice questa è una proposta costruttiva, ora parte la trattativa. Macron ha detto giorno essenziale per l'Unione Europea, ora avanti veloce. Lemer, il ministro dell'economia francese, ha detto la Commissione presenta l'appuntamento con la storia. Così il premier spagnolo Sanchez, la proposta include molte delle nostre richieste. Conte, presidente del Consiglio, ha detto ottimo segnale dell'Unione Europea, la cifra è adeguata. Così Gualtieri, well done. passo in avanti storico. Poi ascolteremo invece anche, cosa ho detto questa mattina, prima dell'accordo però, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Bene anche per i 5 Stelle, Crimi, bene la commissione, Di Maio ha detto usiamo recovery fund per abbassare le tasse, temo che però Di Maio non abbia ben letto la parte del vincolo di queste risorse, devi usarlo per riforme strutturali. Però vorrei sentire il commento su questo anche di Enrico Giovannini, visto che lei ha partecipato a governo, ma anche al comitato di Colao, partecipa, è stato presidente dell'Istat, conosce benissimo i temi perché ne è presidente del sviluppo sostenibile. Le sembra un cambio di passo, Giovannini? Lo è assolutamente, e basta pensare a come l'Europa ha reagito alla crisi del 2008 e del 2009 e non ha reagito ulteriormente a quella del 2011-2012 fino al whatever it takes di Draghi. L'Unione Europea è stata costruita per essere grossa e che quindi in casi particolari, come fece Draghi, interviene con tutto il suo peso che nessun paese da solo può avere. Questo è esattamente il cambio di passo. Secondo cambio di passo importante, al di là delle discussioni, questo fondo, quell'altro fondo, l'Europa ci dice fondamentalmente, addirittura il nome, quindi non è più Recovery Fund, ma è la nuova generazione fund, che o noi ci trasformiamo in senso di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, trasformazione dei nostri sistemi energetici, eccetera, eccetera, oppure noi non avremo la capacità di competere nel mondo. Paesi che sono indietro su questo, e in parte l'Italia, non possono che beneficiare di uno sforzo straordinario, tanto più impossibile nel momento in cui abbiamo usato gran parte delle nostre risorse per l'emergenza, vista la gravità dell'emergenza. Quindi non solo la direzione giusta, ma è anche corretto per un paese come l'Italia che ha dei ritardi strutturali molto importanti e che può finalmente investire grandi risorse nella direzione giusta. Allora, mentre do appuntamento ad Adriana Ceretelli, a domani a sto punto, Adriana, perché ormai ce l'hai promesso, sì, perché invece mi interessa capire, ormai certo. Sul cavolo di tuoi, però. No, a tutti lo vogliamo capire. Come si usano questi 750 miliardi, ammesso che siano. Però devo dire che anche le prime reazioni che ho visto dai paesi avidi, come li chiamo io, paraguri, potremmo dire, visto che l'Olanda è un grande paradiso fiscale. E quindi non sono, diciamo, no, la Danimarca ha detto studieremo bene la proposta, l'Olanda ha avvertito i negoziati saranno lunghi, è chiaro che poi c'è anche il fronte politico interno, però domani avremo Adriana Ceretelli per capire la distribuzione di questi fondi e ripeto, è molto importante sapere se io posso accedere solo alla parte di sovvenzioni, non a prestiti, oppure se il pacchetto dovrà essere preso due terzi, un terzo, cioè, due terzi di prestiti. Scusatemi, due terzi di sovvenzioni e un terzo però a prestito. Dicevo questa mattina la proposta di Giorgia Meloni che ha detto usiamo i fondi del Fondo Monetario Internazionale. L'Unione Europea, come sappiamo, ci sta dando molti problemi. Noi abbiamo bisogno di liquidità, abbiamo bisogno di liquidità subito. Vedremo come verrà formulato oggi la proposta definitiva sul Recovery Fund, ma siamo abbastanza lontani. Il Fondo Monetario Internazionale ha questo strumento che fu deliberato nel 1969, che sono i diritti speciali di prelievo, che sono sostanzialmente nuova liquidità, liquidità creata dal nulla. E sono, se il Fondo Monetario Internazionale decidesse di attivare lo strumento, risorse che vengono distribuite a tutti i 189 paesi che fanno parte dell'FMI, in quota parte. Il Financial Times ha fatto la proposta di utilizzare questo strumento per affrontare la pandemia, generando 1.250 miliardi nuovi. All'Italia toccherebbero 40 miliardi, secondo la sua quota che è il 3%, che sono quindi più dei soldi che avremo con il MES, solo che in questo caso non è un prestito e io non capisco perché il governo italiano non provi a lavorare per l'attivazione di questo strumento. Così questa mattina Giorgia Meloni 24 mattina con Simone Spezia e 24 mattino e Maria Latella. Devo dire che una reazione invece c'è adesso, me la sono cercata, della Svezia. Stupiti dall'Unione Europea, servono prestiti e non sovvenzioni. Sì, ho capito, però vabbè, io sono stupito che quattro paesi del peso della Svezia, della Danimarca, dell'Austria e dell'Olanda possano bloccare torniamo alla cieca, se no è la cieca la Repubblica del Carbone e dell'Acciaio, cioè la facciamo solo con i grossi, se bisogna avere paesi che hanno un peso specifico, massimo rispetto per i danesi, massimo rispetto per tutti, però poi andiamo anche ai pesi politici. Comunque, Enrico Giovannini, mi dice una cosa, non voglio che lei mi parli della scuola o del comitato di Colao, però dopo il GR24 le chiedo un suo giudizio, visto che appunto lei presiede anche quello che è l'ente che dovrebbe studiare uno sviluppo sostenibile sul tema scuola. Siamo noi in ritardo o gli altri paesi hanno sbagliato? Perché è una campagna che abbiamo iniziato a fare e non la vorrei mollare. Resti con noi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio, il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. State ascoltando un programma offerto da... San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. :18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, ancora con noi l'ex ministro, ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini, perché vorrei sentire anche la sua opinione sul tema scuola, visto che ne ha spesso parlato, anche perché è portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed è membro della Task Force per la fase 2. So che lì ha l'obbligo di riservatezza. Devo dare però due aggiornamenti. Il più importante riguarda i dati della Protezione Civile diffusi poco fa. Allora, i decessi sono saliti un po', sono 117, più 0,4%. I guariti più 2.443 persone, le terapie intensive sono scese di 16 unità, meno 3%, i ricoveri di 204, meno 2,4%, sostanzialmente tutti un po'. Le terapie intensive continuano a calare con la stessa indicazione di tutta la settimana, diciamo da sabato scorso. I ricoveri anche calano intorno al 3%, sono risaliti rispetto a ieri i decessi, che erano stati da domenica sotto la quota 100, sono 117, e per quello che riguarda le terapie intensive sono 505, quindi 16 meno di ieri, e ancora i contagiati risalgono a 584 più di ieri, e questo ieri erano stati 397, il giorno prima 300, e soprattutto per la Lombardia che ne ha 384 in più, a dimostrazione che non tutte le regioni sono uguali e che continuare con queste anche sulla scuola a trattare tutte le regioni nello stesso modo, secondo me è una follia. La Svezia nel frattempo, tornando all'altra notizia, quindi la proposta europea, insiste, stupiti, servono prestiti, non sovvenzioni. Comunque, Enrico Giovannini, al di là di questi dati che appunto segnalano un aumento dei decessi e anche dei contagiati, ieri erano stati 397, lunedì 300, oggi sono invece 584. Mentre ero in pausa, diciamo GR24 in pausa pubblicità, mi ha contattato la vice ministro Ascani all'istruzione, quella che aveva avuto la proposta di provare a fare almeno per le classi terminali, le quinte, le terze medie, le quinte elementari, le quinte superiori, almeno un giorno di incontro, poi ieri bocciato dal CTS, domani la Ascani sarà nostro ospite perché non molliamo il tema. Giovannini, visto che sullo sviluppo sostenibile e soprattutto sulla nuova economia, l'istruzione, il capitale della conoscenza, l'economia della conoscenza è tutta, è tutto... Denno ritiene che ci siamo arresi troppo presto come governo rispetto anche al modello che poi è stato fatto in Francia e in Spagna? No, non credo, perché credo che il tema sia molto complesso a causa dei ritardi degli elementi strutturali delle nostre classi, eccetera, per cui è tutt'altro che facile riorganizzare spazi, strutture, e lo dico conoscendo anche alcuni docenti e quindi conoscendo le loro difficoltà, soprattutto nelle aree più disagiate, ma poi perché il rischio di contagio è estremamente elevato e, come ha detto il ministro Gualtieri, non possiamo minimamente rischiare una seconda ondata del contagio, anche per motivi economici. Questo vuol dire che dobbiamo tenere le scuole o le università chiuse a lungo? No, assolutamente no. Ed è la task force in questo caso per il Ministero, noi non ci siamo proprio occupati di questa tematica, che proporrà una serie di risposte. Però mi faccio dire una cosa, non possiamo ricordarci della scuola solo quando si discute della riapertura. Noi abbiamo il 14% di tassi di abbandono scolastico, che normalmente vengono considerati molto alti e su cui non investiamo normalmente, tassi di abbandono scolastico che per alcune persone particolarmente disagiate arrivano anche al 30%. Allora, se dobbiamo investire nella scuola, e dobbiamo, e per fortuna il Recovery Fund o il Next Generation EU, chiamiamolo con la sua giusta dizione, ci metterà a disposizione risorse per investire nella formazione a tutti i livelli, dobbiamo farlo seriamente, e lo dobbiamo fare seriamente, se posso permettermi, soprattutto verso le persone più disagiate, perché tutti i dati che conosciamo da anni ci dicono che ci sono enormi divari che si creano nei primi 6 anni tra chi può andare all'asilo e chi non può andare all'asilo, e successivamente tra chi ha una famiglia alle spalle che è in grado di sostenere in generale l'educazione delle persone e chi non ce l'ha, e così via. Quindi, per favore, sono d'accordissimo a parlare di scuola, ma se la discussione si risolve nel quando la riapriamo, non cogliamo il punto essenziale. No, per carità, c'è sicuramente il punto che dice lei, Giovannini, è che della scuola non ci si può ricordare solo quando i ragazzi sono a casa. Però mi sembra che, seguendo il suo ragionamento, in questo modo il discrimine aumenti, cioè le famiglie più abbienti possono avere una babysitter, possono avere degli spazi, possono trovare delle soluzioni e hanno anche più tablet, devices per far seguire le lezioni, le famiglie meno abbienti si attaccano. Se poi tua moglie lavora... No, aspetti, se poi tua moglie lavora è un problema ulteriore, perché questi ragazzini vanno lasciati con i nonni, da amici, non si capisce bene, dai parenti. Ma lei non ritiene, adesso mi scusi, però non ritiene che siamo arrivati ad aprire tutto, e ci mancherebbe, ci sono motivi economici, ma insomma un paese che riapre le palestre, che accetta che nel bar si possa stare al bancone, basta stare un metro, che accetta che questi ragazzini siano in giro per i parchi a giocare, spesso con la mascherina, accompagnati dai nonni se sono dei bambini, dalla babysitter che magari si infetta anche lei, giocano tra di loro, gli adolescenti sono in giro per la città. Cioè non c'è una contraddizione, io non ho detto che si potessero riaprire tutte le scuole di ordine grado nello stesso modo, né nelle stesse regioni. La Francia e la Spagna ci insegnano che hanno diviso per regioni verdi e regioni rosse, e le regioni verdi hanno aperto prima. Facevo l'esempio di Trapani, che è da 28 giorni che non conosce un caso. Ma insomma, non c'è stata una resa, e il mio sospetto è che la resa si sia fatta perché c'è il sindacato degli insegnanti e poi c'è la paura dei direttori scolastici, presidi e quant'altro, di assumersi responsabilità, anche se in Francia hanno trovato la formula della base volontaria, quindi eri tu che sceglievi di mandare tuo figlio a scuola. Non ci siamo arresi troppo presto? Guardi, io non credo che nessuno si sia arreso. Credo che, come ho detto prima, esistano anche dei limiti strutturali che impediscono, per esempio, un serio distanziamento nelle aule scolastiche. E questo perché non abbiamo investito nelle nostre scuole per decenni, perché sono scuole disastrate, piccole, buie, senza spazi. E quindi, laddove queste condizioni esistono, io credo che tutti vorrebbero far partire le scuole prima. D'altra parte, il tema della responsabilità che lei ha citato va affrontato, perché non è giusto scaricare responsabilità sui direttori scolastici, che vanno ben al di là, diciamo così, anche della capacità di provare dove uno si è eventualmente infettato. Ma quello che io vorrei capire è come mettiamo soldi per non solo consentire ai più disagiati di seguire le lezioni a distanza e tutto il resto di cui abbiamo parlato molto, ma qual è il piano per ristrutturare le nostre scuole per il ventunesimo secolo, anche dal punto di vista degli spazi. No, ma guardi, Giovannini, io non sono. Vorrei che questa cosa portasse la palla troppo. Cioè, è ovvio che bisogna investire nell'edilizia scolastica, a parte che non tutte le scuole sono nello stesso modo. Esatto. Perché c'erano anche e quindi, voglio dire, ci sono scuole che hanno spazi all'aperto, i comuni avevano detto diamo la possibilità ai cinema, ai teatri. Esattamente. Secondo me, guardi, glielo dico, non polemizzo con lei, mica lei, ministro dell'istruzione, è mancata coraggio e fantasia. Che, come canta De Gregori, non sono una cosa da poco, perché è mancato coraggio per provare a vedere se nelle aree con meno contagio si poteva aprire guardando gli altri modelli, e fantasia perché si poteva studiare anche un metodo. Io temo che ci sia stata un'opposizione, non dico degli insegnanti che mi stanno scrivendo che vorrebbero riaprire, ma diciamo una paura di andare contro i sindacati e i dirigenti scolastici. Ha ragione nel dire che vanno tutelati i dirigenti scolastici, e bisogna pensare a una norma. Se è su base volontaria, io firmo una specie di liberatoria e dico mio figlio va a scuola perché accetto, se non voglio non vado. Però non so, il suo è un tema importantissimo, ma non vorrei, perché sennò se devo seguire il suo ragionamento non apriamo neanche a settembre, Giovannini. No, sto dicendo esattamente il contrario. Sto dicendo che nel momento in cui si creano le condizioni per riaprire dove possibile, dobbiamo anche capire come rimuovere le altre condizioni che ci hanno obbligato, a laddove non è possibile, a non riaprire. Perché vede, la questione delle possibili ondate successive è una questione reale, non è un'ipotesi di scuola, come si dice. E mentre da un lato sappiamo che le imprese si possono organizzare, si stanno organizzando anche perché hanno a che fare con adulti, dove c'è un medico competente, dove ci sono una serie di norme che sono state magari definite anche con i sindacati, con la collaborazione, e ci sono fondi per investire in mascherine, disinfettanti, eccetera, la scuola non ha nulla del genere. E dunque, io ripeto, non mi sto occupando del tema, ma attenderemo le proposte che arriveranno dal task force dedicata, che si sta ponendo questi tipi di problemi, sì, quindi non ho una soluzione. No, ma non ce l'ho neanche io, Giovannini, però a me l'altra cosa, domani ne parleremo con il vice ministro Ascani, è che da questo punto di vista almeno comunicare i criteri su cui si stanno muovendo, nel senso che di bar, ristoranti, parrucchieri abbiamo parlato a lungo, la distanza i 2 metri, poi scesi a 1 metro, cioè c'erano degli elementi su cui ragionare. Qua non capiamo ancora come debba essere organizzata una classe, è 2 mesi che ne parliamo, gli altri sono già partiti con le lezioni, non ce l'ho con le Giovannini, quindi adesso esco da questo tema perché sennò sembra che lei sia il ministro di istruzione. Domani con l'Ascani riproporrò tutte le domande. Mi dica invece un'ultima cosa sul Recovery Fund, visto che stanno montando comunque le resistenze dei paesi nord europei, secondo lei da questo punto di vista alla fine si arriverà a un compromesso europeo, cioè un po' per il peso specifico di questi paesi che è basso e un po' perché la Germania è seriamente preoccupata, lei è ottimista sull'accordo finale? Certamente si arriverà a un accordo, però attenzione, se la discussione fosse prestiti a fronte di contributi a fondo perduto, sarebbe, come dire, semplice, perché l'Italia non deve spingere soltanto per una soluzione piuttosto che un'altra. Ma il fatto di aver portato questo recovery fund, secondo me giustamente, anche per motivi di trasparenza nei confronti del Parlamento europeo, all'interno del budget europeo complessivo, vuol dire che dovrà essere discusso anche la distribuzione di questi fondi. E ogni paese, lo sappiamo, ha opinioni diverse. Infine, la scelta importante che questa proposta pone davanti a tutti i paesi è di cedere una parte di sovranità per essere, come dicevo prima, grossi tutti insieme. Naturalmente questa è una difficile partita politica, quindi attenzione a non concentrarsi soltanto sui quattro, perché ogni paese, compresa l'Italia, ha le sue legittime aspettative per finanziare di più un'attività piuttosto che un'altra. Quindi è un negoziato molto complesso, perché è un negoziato, come abbiamo detto prima, che cambia la storia dell'Unione. Allora, grazie anche Enrico Giovannini. Vorrei andare adesso sull'altro tema che stiamo cavalcando da tempo, e mi riferisco ai prestiti che le banche devono dare alle imprese, almeno quelli fino a 30.000 euro con l'emendamento al decreto, perché sono garantiti al 100% dallo Stato. Grazie intanto a Enrico Giovannini, e adesso andiamo sul tema dei prestiti alle imprese. Allora, no, tanto non, lo dico che mi sta scrivendo sulla scuola, mi scrivono anche molti degli istituti tecnici professionali che giustamente fanno notare che, avendo anche tantissime ore di laboratorio in aula, gli elementi non li può imparare via web, è verissimo, non ci sono i laboratori, cioè, però guardate, sono abbastanza convinto di quello che dico, anche perché se aspettiamo che l'ondata ripassi, il mio timore è se poi ottobre novembre torna, cosa facciamo, richiudiamo le scuole, visto che si vuole votare il 20 settembre, quindi alcune scuole verranno chiuse, ma decidiamo che non serve la scuola, ma famo prima così, dai. Guido Rosa, presidente dell'Associazione Italiana Banche Estere, quindi tutti i gruppi bancari esteri presenti in Italia, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, vorrei capire una cosa, le banche che lei rappresenta hanno il problema che ci segnalano molti dell'erogazione dei prestiti da 25.000 euro, 30.000 euro coperti al 100%? Perché qui vorrei arrivare, insomma, a una prospettiva. Adesso il governo ha fatto l'autocertificazione con l'emendamento appunto al DL liquidità imprese, ha aumentato la scadenza fino a 10 anni e porto il tetto per la parte 100% garantita fino a 30.000 euro. Che cosa le dicono i suoi associati? Che c'è il tema dello scudo penale, cioè della protezione per chi deve erogare il credito? Qual è il motivo che ancora blocca le erogazioni? Allora, guardi, per quanto attiene ai prestiti fino a 25.000 euro, è un tema che riguarda molto, molto marginale per quanto attiene alle banche estere, perché non è il tipo di clientela che le banche estere seguono, con l'eccezione naturalmente di quelle banche estere che hanno una rete di filiali, mi riferisco per esempio alla BNL o, certo, la Cassa di Risparmio. Tutte le altre, le cosiddette branches, non hanno assolutamente, ma nemmeno un cliente, ma per loro natura, questo da sempre. Quindi semmai la questione si rivolge alla clientela di più alto taglio, quelle che hanno accesso, diciamo così, al sistema della Cassa Depositi, della FACE, ecco, tanto per intenderci. In queste qualcheduna è coinvolta, ma non in maniera determinante. In linea generale quello che io sento è che certamente l'erogazione, parliamo di quelli fino a 25.000 euro, è stata estremamente difficile e complicata per una serie di ragioni di carattere legale, burocratico, eccetera, ma che adesso in qualche modo si sono semplificate e mi sembra di capire che l'erogazione stia adesso fluendo in maniera più massiva di quanto non fosse fino a qualche settimana fa, in linea generale. Ecco. Dunque, senta, invece per quello che riguarda l'analisi che voi avete condotto, su questo volevo, avete preso un panel di società finanziarie, fondi di investimento e multinazionali, emerge un giudizio non troppo positivo su come stiamo affrontando la seconda fase della pandemia, peggio di noi solo Regno Unito e Spagna, se ho ben capito. Esatto. Ma qual è la cosa che lascia più perplessi i vostri, diciamo, chi voi avete interrogato e avete appunto messo nell'indagine? Questo è un servizio che abbiamo fatto adattandoci appunto a questa straordinaria emergenza del coronavirus. I messaggi che ne vengono fuori sono sostanzialmente tre. Il primo è quello che lei accennava, e cioè che l'Italia, ma non solo nella fase 2, anche nella fase 1, non è considerata come uno dei paesi che si è meglio organizzata per far fronte alla pandemia, quindi questo da un punto di vista, come dire, proprio medico, ma non è nemmeno un paese che si è organizzata molto bene dal punto di vista dell'uscita, quindi della fase 2 e della fase 3. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio, comunque il primo adesso è irrilevante dal punto di vista dell'importanza, è che, e quello che abbiamo chiesto, è che viene sospeso, c'è un giudizio molto sospeso sulla possibilità che avrà il nostro paese di uscirne in maniera positiva da questa situazione. Più specificatamente, alle nostre domande, il nostro panel ha risposto che ci sarà, perché era questo un po' il focus della nostra inchiesta, ci sarà un relativo e modesto, questo nelle loro previsioni, deflusso di capitali, e ci sarà probabilmente invece un afflusso di capitali un po' più sostanziale, perché ci potrebbero essere naturalmente, come dire, delle buone occasioni per gli investitori esteri di venire ad acquisire società italiane che si trovano in qualche modo in difficoltà. Allora, questo è un messaggio duplice. So che per alcuni può essere considerato negativo perché sembra quasi uno shopping, è vero, dell'estero nei confronti dell'Italia. In un mondo globale nel quale dobbiamo imparare a non dare più, come dire, l'etichetta di nazionale dei capitali che vengono investiti, secondo me è un messaggio invece abbastanza positivo. Il terzo punto, messaggio che noi deriviamo da questa analisi, è che naturalmente l'Italia dovrebbe fare tutti gli sforzi possibili per sfruttare tutto questo gigantesco, mi scuso il termine un po' roboante, pacchetto non ancora ben definito di finanziamenti dice dalla BCE al MES, dal SURE al Recovery nel Fund. MES specificatamente tutti si chiedono come mai, tutti insomma il panel in qualche modo, la maggioranza si chiede come mai l'Italia abbia queste preclusioni di principio per fare ricorso a un finanziamento. Secondo me è solo rosa, è solo ideologico, anche perché abbiamo dimostrato su Sole 24 Ore che utilizzare i soldi del MES rispetto invece a emettere obbligazioni, quindi chiedere soldi sul mercato, porterebbe un risparmio di interessi sul debito contratto di circa 6 miliardi nel periodo di scadenza all'Italia, perché li otterresti a un tasso di interesse molto più basso di quanto non avresti se dovessi andare a chiederli sul mercato. Grazie anche, quindi su questo con MES fondo una porta aperta, penso che ci sia una posizione di principio al MES, solo perché si chiama MES, perché c'era il vecchio MES, diciamo, quello che esiste ancora, ma non il MES per il Covid-19. Grazie anche a Guido Rosa, presidente appunto dell'Associazione delle Banche Estere in Italia. Chi mi dice sulla scuola, ma ne riparleremo domani, il caos sui trasporti, migliaia di ragazzi sugli autobus, si poteva trovare qualcosa. A parte il fatto che abbiamo riaperto tutto, quindi non mi sembra che il problema si sia posto per gli altri lavoratori. Anche la babysitter prende l'autobus a questo punto. Ma si poteva pensare a qualcosa, a classi alternate, e ripeto, io voglio capire i meccanismi con cui hanno fatto questa scelta. La trasparenza è tutto, ma ne riparliamo domani con il vice ministro all'istruzione appunto Ascani. Intanto da Sebastiano Barisone le auguro di una buona serata.